La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, le 16:30 primi 52 secondi, qui in diretta di studio in Milano della Radio. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo della trasmissione per proporre suggerimenti, critiche, domande o temi di trasmissione: la versione di Oscar @radio24.it. E oggi dobbiamo per forza seguire, dandovi aggiornamenti e primi commenti, la notizia terribile che qualche tempo, da un po' più di un'ora, sta sui siti internazionali, sulle agenzie, eccetera eccetera, e quindi vi diamo gli aggiornamenti in diretta di quanto sta emergendo per attentato alla metropolitana di San Pietroburgo, e per capire che cosa si può nel frattempo apprendere o supporre, per il momento direi supporre, sulla matrice di questo attentato, per porci poi un problema più in generale relativo ai molti in realtà attentati che la Russia ha subito negli ultimi anni in ragione del problema che è un problema fondamentale della sua politica estera ai suoi confini, perché il problema dell'estremismo islamista ce l'ha nell'arco caucasico la Russia, e quindi la Cecenia, l'Ossetia, il Dagestan, ed è questa la matrice che, come vedremo, ha animato i numerosi attentati con centinaia di vittime che ci sono state dalla fine degli anni 90 in Russia. Sentiremo il commento di Stefano Silvestri, ma intanto è qui in studio la collega Giornale Radio per darci tutti gli aggiornamenti. Annarita, grazie. Grazie a te, Oscar. Gli aggiornamenti sono due in questo momento, poi ripercorriamo anche la giornata fino a questo momento. Innanzitutto il numero delle vittime, che è stato per fortuna ridimensionato. Si parla adesso di 9 vittime e almeno 20 feriti, tra i quali un bambino. La seconda notizia è che sono 2 le indagini già aperte sui fatti di oggi, una per terrorismo e l'altra per produzione di esplosivi e ordigni. Che cosa è successo e a che ora è avvenuta? L'esplosione è avvenuta alle 15 ora locale, le 14 in Italia, tra 2 stazioni della metropolitana blu di San Pietroburgo, in una zona centrale della città. La matrice terroristica è oramai certa, l'esplosione è stata una sola, inizialmente si era parlato di 2 esplosioni, ma tra 2 stazioni, e quindi il fumo e la paura si è ovviamente diffusa in 2 punti diversi della metropolitana della città. Un ordigno potentissimo, artigianale ma potentissimo, e un altro ordigno inesploso che è stato trovato in una stazione vicina. Ad agire non è stato un kamikaze, l'ordigno probabilmente era stato lasciato su un vagone prima della partenza del convoglio. Le stazioni sono quella di Sennaia e quella dell'Istituto Tecnologico. La linea blu della metropolitana è anche una meta turistica, perché la metropolitana di San Pietroburgo è stata la seconda metropolitana ad essere costruita nell'Unione Sovietica dopo quella di Mosca, che come sappiamo è visitata da tantissimi turisti. In tutto le linee sono 5, la linea blu è quella che taglia però interamente la città. È una metropolitana costruita molto in profondità, perché è costruita sotto il fiume Neva, quindi insomma anche la deflagrazione ha provocato danni molto consistenti. Nell'ordigno addirittura c'erano delle schegge all'interno dell'ordigno e dei proiettili. A San Pietroburgo oggi c'era Putin, tra l'altro San Pietroburgo è la città natale di Putin, e Putin era lì per partecipare ad un forum sui media e a incontrare il presidente bielorusso Lukashenko. Ha definito subito l'attacco terroristico la versione prioritaria per definire questa esplosione, ha parlato di manifestazioni di natura terroristica, però non meglio precisate, Oscar. Allora, Annarita D'Ambrosio è qui e interviene ogni qualvolta veda sulle agenzie una qualunque novità. Io volevo solo ricordarvi, poiché c'è qualcuno che dice ma la Russia è immune dagli attacchi dell'ISIS, la Russia in realtà ha un problema con il fondamentalismo islamista che è dovuto al problema del nazionalismo separatista, ripeto, fortissimo sull'arco caucasico, quindi stiamo parlando della Cecenia. Basta dare un'occhiata retrospettiva al conto purtroppo delle vittime dei numerosi attentati che ha dovuto subire. Cominciamo da quello del 1999 a Mosca e a Volgodonsk, proprio a seguito dell'invasione del Dagestan da parte delle forze armate russe. I ribelli islamici daghestani risposero con questa offensiva con una serie di attentati dinamitardi, prendendo di mira palazzi interi a Mosca e Volgodonsk, tant'è vero che i morti di questa offensiva, che durò complessivamente 11 giorni, stiamo parlando del settembre 1999, dal 4 al 15 di settembre, le vittime furono 293, con più di 1000 feriti, a rivendicarlo fu l'esercito per la liberazione del Daghestan. Se procediamo, abbiamo poi un'altra, purtroppo, tragica strage che avvenne, in questo caso ci spostiamo all'ottobre 2002, e quella che si ricorda come la crisi del teatro Dubrovka, ed è il sequestro che avvenne appunto tra il 23 e il 26 ottobre 2002, teatro Dubrovka, Mosca. Furono sequestrati e tenuti in ostaggio 850 civili da parte di un gruppo di una quarantina di militanti ceceni, che appunto agivano dichiaratamente rivendicando il separatismo ceceno, chiedendo l'immediato ritiro delle forze russe della Cecenia. Eravamo all'epoca ancora nella lunga coda della seconda guerra cecena. Assedio, due giorni, poi le forze speciali russe pomparono un agente chimico. Questo agente chimico all'interno della ventilazione del teatro provocò la morte di, ohimè, 129 ostaggi e di tutti i 39 combattenti militanti ceceni. Quando poi ci fu l'irruzione, sulla stima delle vittime civili c'è stata una lunga coda successiva, ma come vedete stiamo parlando di un numero di vittime molto molto elevato. Dopodiché 2004 l'attentato di Beslan, e questo immagino che qualcuno magari 13 anni se lo ricorderà, perché anche in questo caso un massacro che avvenne nella scuola, una scuola numero 1 di Beslan, appunto, stiamo parlando dell'Ossetia del Nord, una repubblica autonoma sempre nel Caucaso, e 32 ribelli in quel caso, con lo stesso schema del teatro Dubrovka, occuparono la scuola, erano sempre separatisti ceceni, sequestrando 1200 persone tra adulti e bambini, tre giorni di assedio, dopodiché le forze speciali russe fecero irruzione. E questo massacro portò alla morte di oltre 300 persone, tra le quali, ohimè, 186 bambini, oltre 700 furono i feriti. Dopodiché, 2009, attentato a un treno, e qui inizia a spostarsi l'obiettivo degli attentati caucasici, perché nel 2009 l'attentato al treno Nevskij fu l'inizio, per così dire, di attentati che successivamente poi hanno avuto altri episodi nell'immediato succedersi di tempo. Nel marzo 2010 attentate alla metropolitana di Mosca, 41 vittime, due donne kamikaze in due stazioni della metropolitana di Mosca, anche in questo caso attribuito dalle autorità federali russe ai separatisti ceceni. Poi l'attentato all'aeroporto di Mosca Domodedovo del 2011, e in questo caso nel gennaio del 2011, e anche in questo caso 37 vittime più due attentatori. Come vedete, la fila è lunga delle vittime degli attentati. Volgograd nel 2013, anche qui una stazione, esplosione e 34 vittime, compresi due attentatori. Attacchi suicidi anche in questo caso. Bisognerà vedere a questo punto se San Pietroburgo, poiché i luoghi, come vedete, in questi ultimi anni sono stati scelti con un criterio che sembra analogo, se anche a San Pietroburgo la matrice è la stessa, la modalità è la stessa, se l'attivazione, come nel caso delle donne kamikaze, era avvenuta a distanza tramite un telefonino, perché questa fu la ricostruzione delle autorità russe sia per gli attentati alla metropolitana di Mosca sia all'aeroporto di Mosca, e quindi dovremo capire. Certo è che gli elementi di continuità inducono in qualche modo chi fa il nostro mestiere a dovervi ricordare questa serie, perché qualche considerazione immediata, per così dire, sorge spontanea. Allora, mentre Annalita controlla, abbiamo collegato con noi per avere un primo commento non sulla matrice ma sul tipo di impegno che per la Russia in tutti questi anni ha rappresentato il fronte sempre aperto, sanguinoso, degli attentati di questo tipo di terrorismo che è radicato nel problema ceceno. Ed è con noi Stefano Silvestri, che è consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, è stato presidente dell'Istituto Affari Internazionali dal 2001-2013. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Silvestri. Buon pomeriggio a voi. Non le chiedo nulla sulla matrice, però certo, se uno vede la continuità di questa scia di sangue, ci sono delle analogie. Sì, penso, ma ci sono delle analogie. Anche la stessa costruzione della bomba con frammenti e proiettili interni è un sistema che è consigliato dalle varie pubblicazioni dell'ISIS e anche di Al-Qaeda. Erano quelli che, come quelle che erano state usate a Boston, no? La pentola a pressione con dentro. Quindi degli ordigni fai da te? Possono essere gli ordigni da te oppure no, adesso non lo so, perché hanno parlato di tritolo, adesso non so se sia confermato o meno. In quel caso probabilmente c'era una disponibilità di esplosivi più sofisticati, diciamo, però. Comunque vedremo. Chiaramente, se si tratta di terroristi islamici, siano essi di origine caucasica o meno, hanno tutte le possibilità di dotarsi di questi tipi di ordini. Distinguiamo un secondo nell'analisi. Se dovesse dire a un pubblico che naturalmente non segue né continuativamente né approfonditamente la questione caucasica nella Russia di Putin oggi nel 2017, che cosa resta aperto di questo gigantesco problema pluridecennale nella Russia di Putin oggi? Ma il problema caucasico in realtà resta aperto, anche se in Cecenia è stata operata una specie di pacificazione, ma il Dagestan è ancora abbastanza piuttosto aperta come situazione. Diciamo che non c'è più la guerra secessionista in atto, perché sono state schiacciate questi tipi di rivolte, però la situazione rimane delicata. Non solo, sappiamo che da questi paesi sono partiti, ad esempio per la Siria, molti combattenti che sono andati a unirsi ai gruppi a combattenti in Siria e in Iraq, ugualmente come già erano andati dai Balcani, peraltro. Quindi c'è una internazionale dei combattenti terroristi che passa per la Russia e che è abbastanza numerosa. Ma meraviglierebbe troppo. Ma per quello che abbiamo imparato negli anni seguendo i diversi teatri degli scontri, la radice separatista cecena islamista ha avuto dei veri e propri patti con Al-Qaeda prima e con l'ISIS poi, è rimasta distinta combattendo lì a nome anche della propria causa oppure no? Beh, è rimasta abbastanza distinta in realtà, però i suoi militanti hanno sicuramente contribuito sia ad Al-Qaeda che all'ISIS. E diciamo che l'elemento indipendentista in questo momento è basso, però non scordiamoci che la Russia è fortemente impegnata in Siria. Esatto. Quindi in questo caso il terrorismo può aver trovato la maniera di fare doppio impiego, insomma, di punire la Russia per la Siria, come già era stato detto, per esempio, quando era stato abbattuto l'aereo sul Sinai, no? Sì. E nello stesso tempo di proseguire la lotta dei caucasici. Quindi, diciamo, anche se le due cose sono distinte, perché una è una lotta che possiamo chiamare una lotta di liberazione indipendentista e l'altro è una lotta più ideologica volta alla ricostituzione di una nuova società, di un nuovo califfato e così via, le due cose a livello perlomeno dei militanti si confondono facilmente. Allora, un minuto di pausa per il traffico e poi torniamo con i nuovi aggiornamenti da San Pietroburgo con Arita D'Ambrosio e con Stefano Silvestri per i primi commenti, per cercare di inquadrare le prime notizie. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qua, 16:46, primi e 28 secondi, siamo di nuovo tornati in diretta su Milano di Radio 24, trasmissione dedicata inevitabilmente agli aggiornamenti, al primo tentativo di comprendere ciò che dalle prime notizie possiamo arguire intorno all'attentato alla metropolitana di San Pietroburgo. Annalisa D'Ambrosio, ci sono aggiornamenti? Sì, ci sono aggiornamenti. Parlavamo con Silvestri della Siria, gioia ed esultanza sui social media arabi tra gli attivisti dell'opposizione siriana per l'esplosione avvenuta alla stazione della metropolitana. Chiunque sia dietro questa esplosione, tutti dobbiamo gioire perché la Russia sta bevendo ora dallo stesso calice di veleno che la nostra gente in Siria beve da 2 anni, ha twittato un'attivista siriana sul proprio account. E poi l'altro aggiornamento riguarda il secondo ordigno di cui avevamo parlato, quello inesploso, è stato disinnescato, dunque era un ordigno insomma potenzialmente lesivo come l'altro, altro come quello che è esploso, provocando, lo ripetiamo, il bilancio attuale è di 9 vittime e 20 feriti. Ma con una lunga serie alle spalle di attentati dovuti alla matrice islamista separatista cecena, come abbiamo ricordato. Allora, Stefano Silvestri, la domanda diventa a questo punto, a me ha molto colpito ieri, non mi ha particolarmente stupito, però mi ha colpito la decisione, cioè è uscita una nota ieri della Brookings Institutions che dice Putin non è un populista nel suo paese, ma può molto guadagnare dai movimenti populisti in tutto il mondo, e a scrivere Giuliana Tesova, che è una analista della Russia di Putin che seguo da anni, di cui insomma mi fido abbastanza a dire la verità, il retropensiero di Putin e del suo circolo presidenziale intorno a Trump era per così dire un po' demitizzante, cioè invitava il lettore di Brookings Institution a non commettere l'errore davvero di cadere nella semplificazione giornalistica, di credere che Putin davvero si fidi davvero di Trump e viceversa, per così dire, perché dice da una parte non si fida della tra virgolette coerenza e profondità delle iniziative fino a questo momento annunciate da Trump, dall'altra ha una carta di riserva in Europa, e per così si spiega anche la sua politica di sostegno a molte forze che in Europa non fanno mistero di guardare a un'altra Europa, non più occidentalista, non più nella NATO e così via. Ma al di là di questo, problema che veniva posto in questa nota della Brookings Institution era un altro. Nessuno, diceva, in realtà ha ancora capito davvero cosa cambia con l'amministrazione Trump rispetto al ruolo della Russia esattamente sul teatro siriano e nel Medio Oriente, dove comunque Putin, stivali sul campo e jets in aria, ha preso una centralità al tavolo dove si danno le carte, con l'Iran da una parte e quindi il mondo sciita anche nel sud del Libano dall'altra, e la Turchia rispetto a un qualunque asset successivo alla fine delle operazioni, diciamo così, qualunque sia l'esito da identificare come fine delle operazioni contro l'ISIS. La sua opinione, Silvestri, è cambiato qualcosa fino a questo momento dell'atteggiamento americano nei confronti di come Putin ha fatto evolvere la sua presenza militare a quel tavolo? Neanche ai tempi della Guerra Fredda la Russia poteva sognarsi, all'epoca dell'Unione Sovietica, di esercitare un ruolo di quel tipo. No, in effetti Trump non ha preso iniziative significative, anzi direi che è stato costretto dalla situazione politica interna e dalle accuse a tutto il suo cerchio di collaboratori circa i rapporti che costoro avrebbero avuto con i russi, a raffreddare molto la sua conclamata volontà di arrivare a un accordo diretto con Putin. Tant'è vero che adesso non parla più di rapido viaggio in Russia, ha ritardato, ha rinviato, cancellata la situazione, per cui diciamo che sta più su una posizione tradizionale ancora. E per quel che riguarda il Medio Oriente, direi che non ha avanzato nuove ipotesi. Continua nella strategia di Obama, che è quella del lento strangolamento dell'ISIS attraverso l'uso delle forze locali e di bombardamenti aerei, peraltro neanche estremamente fitti, più un certo uso di droni per uccisioni mirate. Ma in realtà l'impressione che si è avuta è stata quella di un rallentamento abbastanza forte del contributo, sì, americano, no? Sì, abbastanza, cioè, rimangono lì, abbastanza fermi. Non so se avesse l'intenzione, perché si pensava che lui volesse proporre a Putin una specie di accordo di divisione della Siria, un pezzo ai russi, un pezzo ai turchi, un pezzo ai sunniti appoggiati magari dagli americani. Questa è un pezzo ai curdi, ma piccolo relativamente, perché se no i turchi non ci stanno. Sì, esatto. Però di questo discorso direi che è un discorso molto difficile in realtà, e politicamente molto delicato. In realtà non mi sembra che in questo momento se ne parli molto. No, di fatto la Russia si sta ricavando una sua zona di influenza, direi che in parte coincide, in parte contigua con la zona di controllo di Assad. La domanda che devo fare, riconducendo però da dove siamo partiti la questione, cioè al fine del contenimento e dello smantellamento in realtà militare e in termini di sicurezza, difesa, intelligence del separatismo musulmano caucasico, il fatto che la Russia di Putin giochi sia al tavolo con l'Iran sciita, sia visto il mutamento di fronte che Erdogan, dopo il finto colpo di Stato, o comunque dopo, diciamo, il presunto colpo di Stato, ha dato di nuovo ai rapporti con la Russia, da molto tesi con l'abbattimento di un jet russo, sono diventati di piena cooperazione. E col fatto che la Russia abbia in realtà un rapporto così stretto con la potenza sciita di tutto il Medio Oriente e con questo neoegemonismo ottomano sunnita, in questo cosa cambia dal punto di vista della sua strategia contro il separatismo islamista ceceno? Ma gli dà delle carte, perché evidentemente nella misura in cui riesce, non tanto l'alleanza con gli sciiti, perché il separatismo caucasico è sunnita, ma diciamo soprattutto il rapporto con la Turchia gli dà qualche carta in più, perché è anche un rapporto con i fratelli musulmani indirettamente, perché questo è poi il collegamento diciamo di Erdogan con i movimenti sunniti arabi. Diciamo che gli dà qualche carta in più di influenza sul mondo musulmano indirettamente. Ma al separatismo ceceno? Non so se cambi molto. Anche secondo me non cambia molto. Ma no, francamente, nella credo. Storia recente noi abbiamo avuto prove o indizi, la comunità dell'intelligence, che al separatismo ceceno arrivassero finanziamenti, per esempio, da alcuni Emirati del Golfo, o no? Sì, certamente. Sono arrivati, credo che arrivino tuttora, ma non solo. Questi continuano a finanziare anche movimenti esplicitamente terroristi, per cui non la cosa non meraviglia. Direi che però in questo caso il controllo è molto più difficile, perché in particolare paesi come il Qatar, per esempio, esatto, Non seguono una loro linea, sì, sì, che non è particolarmente influenzata né dalle scelte russe né direi da quelle americane. E diciamo che lì c'è un problema in Yemen che avrà forse qualche influenza su questo. Ma comunque, io intanto ringrazio Stefano Silvestri. Qualche altro aggiornamento, Anna Rita? Sì, la bomba era contenuta in una 24 ore e la persona che si sospetta l'abbia piazzata sarebbe stata filmata dalle telecamere interne. Ah, quindi c'è modo poi per fare un identikit e accertare qualcosa sulle possibili matrici oltre che sui colpevoli. Grazie Anna Rita D'Ambrosio, grazie Stefano Silvestro. Continuate su Radio 24, Focus Economia, e appuntamento con me Alessandro Mina domani alle 8:20. Attenti a lui.